perfetto giorno di Simone Spezia. È ancora una giornata pesante per i mercati, giù tutte le borse europee, affonda quella di Atene, lo spread risale oltre i 130 punti base. Sulle unioni civili dal PD un no ad Alfano, resta nel DDL l'adozione del figlio del partner, mentre Grillo cambia idea di nuovo, libertà di coscienza solo su quest'ultima e non sull'intero DDL Cirinna. Picchiati, ingozzati di cibo, umiliati, insultati, le violenze in un centro per disabili alle porte di Roma, 10 gli arresti. Dopo le manette per una tangente sui rifiuti si dimette il sindaco di Brindisi Consales, la città andrà al voto insieme alle altre nelle prossime amministrative. Nell'Egeo, a largo della Turchia, un nuovo naufragio di migranti con 11 vittime. Oggi l'incontro tra Merkel ed Erdogan ad Ankara. Domani inizia il Festival di Sanremo e inizia oggi il nostro racconto, il diario della manifestazione del nostro Enrico Ruggeri. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Apriamo ancora una volta e anche oggi parlando di mercati, perché la giornata è molto difficile e tra l'altro non si prospetta positiva, visto che anche i futures sugli indici americani sono particolarmente negativi. Vediamo di fare un punto su quello che sta succedendo e sul perché succede con la nostra Deborah Rosciani. Deborah, buongiorno. Buongiorno anche a voi, è una bella domanda, anche perché questa mattina non possiamo attribuire la responsabilità di questo calo europeo neanche alla Cina, visto che i mercati cinesi sono chiusi per tutta la settimana per il capodanno cinese, per cui l'Europa ha questo ribasso tutto per conto suo. E per la verità adesso le cose vanno anche leggermente meglio rispetto ai collegamenti che abbiamo fatto nell'ultima ora, perché Francoforte è arrivata a perdere quasi 3 punti, adesso perde 2,5 punti, Parigi meno 2,30, Londra meno 1,71 e Milano meno 1,81%. Per quello che riguarda Piazza Affari, sotto i riflettori la soglia tecnica su cui poggia il FTSE MIB è quella dei 17.000 punti, in questo momento l'indice è al di sotto di questo livello, monitorato appunto con grande attenzione da parte soprattutto degli operatori di borsa e dei trader. Abbiamo un calo generalizzato su tutti i settori, ancora in fibrillazione il comparto bancario, ma oggi questo tema non riguarda solamente Milano, riguarda anche la Germania, dove Deutsche Bank sotto i riflettori da un bel po' sta sprofondando di 6 punti, quindi un tema europeo questa mattina. C'è anche il caso Atene, so che ne parlerai Simone, a causa dei timori su una nuova crisi politica la borsa greca sta sprofondando di 6 punti percentuali. E per quello che riguarda Piazza Affari dobbiamo segnalare, a parte il calo di 7 punti di Fiat e Monte dei Paschi, il meno 21% in questo momento di nuovo sospesa dalle contrattazioni Saipem, il titolo già falcidiato dall'aumento di capitale, oggi subisce anche il credit watch negativo da parte di Standard & Poor's e altre bocciature da parte di altre grandi case di investimento che vedono il titolo ancora più basso rispetto alle quotazioni attuali. Si salvano solamente Enel Green Power ed Enel, più 0,4 e più 0,2%, fino a poco fa si salvavano anche le banche che dovrebbero andare ad aggregazione a breve, la Pop Milano e il Banco Popolare, attesa una lettera di intenti in settimana, ma vedo che perdono terreno anche queste banche, per cui davvero oggi si salvano in pochi. Simone, forse l'oro si salva, che sta ritornando a salire, il bene rifugio per eccellenza ritorna a far parlare di sé. Grazie Deborah Rosciani per questo aggiornamento e più avanti come sempre torneremo a fare il punto con i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore alle 13.30, qualcuno ci scrive a proposito di questo su WhatsApp, dice al bando le vendite allo scoperto, è un provvedimento che in passato è stato utilizzato ma l'efficacia ci è sembrata dubbia, almeno le ultime volte che è stato utilizzato. Comunque torneremo a parlare di mercati tra poco, intanto andiamo alla politica che oggi si articola su due fronti, da una parte la coda lunga per così dire delle primarie di Milano, l'attenzione qua è concentrata su due aspetti, il primo sono le scelte del centrodestra per il candidato che forse arriveranno già in giornata, il secondo le scelte degli elettori più tipicamente di centrosinistra rispetto ad un candidato, Beppe Sala, che non sembra convincerli appieno. Ci arriveremo tra un attimo, ma prima l'altro tema che sta dominando la scena, le unioni civili con un nuovo cambiamento o aggiustamento di rotta da parte di Beppe Grillo. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, avanti senza stralci, intanto vediamo al PD che conferma la linea, non sarà accantonato il capitolo adozione nonostante la decisione di Beppe Grillo di lasciare i senatori del Movimento 5 Stelle libertà di coscienza sulla step child adoption, mentre stamattina dal blog si precisa sì al provvedimento. E anche malgrado il pressing di Alfano che continua a chiedere lo stralcio sul capitolo adozioni. Lo ribadisce il Premier Matteo Renzi che questa mattina ha incontrato i capigruppo dem della Camera e del Senato Ettore Rosato e Luigi Zanda, insieme al ministro delle riforme Maria Elena Boschi. Andiamo avanti sulla decisione: il PD non è per lo stralcio della stepchild adoption, si lavora per una maggioranza parlamentare che approvi il testo, i pentastellati sono e rimangono inaffidabili. Dal partito d'Alfano poi c'è da dire che i toni un po' s'attenuano, il ministro della salute Beatrice Lorenzin assicura che non ci sarà nessuna ripercussione sulla maggioranza, il governo non ha messo bocca sul provvedimento e ognuno è libero di dire la sua opinione. Inizia intanto la conta dei voti al Senato. Il no dei 5 Stelle sulla stepchild adoption, o comunque la libertà di coscienza, con questa libertà di coscienza dovrebbero essere 7 i senatori che potrebbero votare no, ma c'è chi assicura che i verdiniani non faranno mancare il sostegno al governo anche su questo provvedimento. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento e più avanti torneremo a parlare di questo anche con una deputata del Movimento 5 Stelle che si è espressa molto criticamente contro la presa di posizione appunto arrivata dal blog di Grillo. Veniamo all'altro tema che si diceva di questo giorno, l'altro tema politico, ossia le primarie di Milano. Lo snodo forse principale in questo momento è se gli elettori di Maiorino e Balzani voteranno Beppe Sala oppure no. Raffaella Calandra, buongiorno, hai raccolto insomma un po' di umori nelle scorse ore, hai seguito tutte le cose, raccontaci che cosa ti hanno detto. Sì Simone, appunto formalmente bisogna ricordarlo, tutti andando a votare alle primarie si impegnano a sostenere il vincitore anche se non fosse il proprio candidato, ma quello che è il cuore della carta dei valori del centro-sinistra, che è stata sottoscritta da chiunque sia andato ai seggi e che è stato proclamato ieri al Teatro Elfo da tutti i candidati, non è in realtà, come dicevi, così scontato fino in fondo, ma forse è il nodo di queste settimane. Lo hanno abbastanza esplicitamente fatto capire alcuni elettori, soprattutto di Francesca Balzani più che di Maiorino, mentre erano in fila per votare, e lo conferma a distanza chi ha deciso di non partecipare stavolta alle primarie. Per lo più sono i temi della campagna elettorale a restare ancora ieri presenti nei commenti a caldo da parte della base che ho incontrato appunto nei vari seggi e poi al Teatro Elfo Puccini, di chi diceva di vedere in sala le proiezioni di Matteo Renzi e quindi che non sosterrà il Partito della Nazione, e di chi invece tirava fuori ancora i conti di Expo e di chi non vede nulla di sinistra e di sicuro nulla di arancione, ci ha detto una signora che aveva una sciarpa arancione intorno al collo, nel vincitore. Per cui il sostegno a giugno a Sala non è affatto scontato fino in fondo, molto dipenderà, per dirla con le parole della principale sconfitta, ossia Balzani, dal lavoro che i candidati ora faranno nel ricompattare le proprie squadre e dal lavoro che farà soprattutto di arbitro, di garante il sindaco Pisapia, appunto nella direzione di un'unione del centro-sinistra. Dall'altra parte molto dipenderà anche dalla squadra e dagli scenari che da oggi in poi il vincitore Beppe Sala comincerà a prospettare a tutti, a cominciare, come ricordavi, dai principali suoi sfidanti, ossia Balzani e Maiorino. Simona. E grazie alla nostra Raffaella Calandra per questo aggiornamento, e più avanti ne torneremo a parlare soprattutto con dei dati, perché c'è un osservatorio nazionale sulle primarie realizzato all'Università Statale di Milano che sottopone un questionario alle persone che votano, e tra le altre cose gli ha chiesto proprio: ma se il vostro candidato perdesse, andreste a votare l'altro candidato? Tra un attimo sentiremo che cosa hanno avuto da dire gli elettori. Passiamo al sindaco di Brindisi che è stato arrestato, finito in manette nei giorni scorsi. Ebbene, stamattina ha rassegnato le dimissioni. Ha anticipato i consiglieri comunali e ha rassegnato le dimissioni irrevocabili dalla carica di sindaco di Brindisi alle 8 di questa mattina Mimmo Gonzales. Il primo cittadino è agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione per una presunta tangente di 30.000 euro nel settore dei rifiuti. Una decisione la sua che ha anticipato di poco quella dei consiglieri comunali di lasciare in massa, su indicazione del governatore Michele Emiliano, che da mesi invocava nuove elezioni. Un passo indietro, quello dei componenti dell'assise, infatti, che consentirà a Brindisi di andare al voto, probabilmente già in primavera. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche questo è un tema sul quale torneremo, ne parleremo con Paola Baldassar, ex vice sindaco di Brindisi, che si è dimessa in realtà in tempi non sospetti per un'altra inchiesta che riguardava il sindaco. Tra Napoli e Caserta questa mattina c'è stata una maxi operazione contro la camorra e contro lo spaccio di droga, un blitz con decine di arresti che ha portato a momenti di forte tensione davanti al comando dei carabinieri di Caserta durante l'uscita degli arrestati. Molti familiari provenienti dal Parco Verde di Caivano hanno preso a calci e pugni il cancello d'ingresso del comando e sputato contro carabinieri, giornalisti, fotografi e operatori. Ci vuole l'esercito per far star zitte le pistole, aveva detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano giusto ieri. Siamo alle indagini sulla morte di Giulio Regeni. Sulla morte di Giulio Regeni non accetteremo versioni di comodo, vogliamo la verità. In un'intervista oggi il ministro degli esteri Gentiloni interviene così sulla vicenda del giovane ricercatore italiano ucciso al Cairo in circostanze ancora misteriose. Vogliamo che si individuino i reali responsabili e che siano puniti in base alla legge. L'Egitto è un nostro partner strategico ed ha un ruolo fondamentale per la stabilizzazione della regione, ma l'Italia ha il dovere di difendere i suoi cittadini, spiega il responsabile della Farnesina. L'autopsia eseguita sabato a Roma intanto ha confermato che il giovane è stato a lungo torturato prima della morte causata dalla frattura di due vertebre cervicali dovuta ad una violenta torsione del collo. Le indagini, alle quali stanno prendendo parte anche investigatori italiani, puntano a fare chiarezza su cosa sia avvenuto negli 8 giorni fra la sua sparizione e il ritrovamento del corpo. Sembra più di un sospetto quello che Regeni sia stato vittima di un omicidio politico, torturato e ucciso da uomini forse legati ai servizi segreti egiziani che potrebbero averlo arrestato per scoprire l'identità dei suoi informatori e degli attivisti politici che lo aiutavano nella sua ricerca e nei suoi articoli sui sindacati egiziani indipendenti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La vicenda del giugno scorso la ricorderete a Milano. 3 giovani sudamericani avevano preso parte ad un'aggressione nei confronti di 2 ferrovieri, uno dei quali venne colpito con il machete e rischiò di perdere un braccio lo scorso giugno. Oggi sono stati condannati a pene fino a 16 anni di carcere. Lo ha deciso il GUP di Milano Alfonso Ferraro, che ha assolto altri 3 giovani imputati, uno dei quali era stato arrestato assieme agli altri 3. Il giudice ha anche disposto risarcimenti per i 2 ferrovieri. Un vero e proprio lager, 16 ragazzi disabili degenti, di cui 5 minori di 14 anni affetti da gravi patologie neuropsichiatriche e motorie, che venivano picchiati, ingozzati di cibo a forza, umiliati e insultati. Succedeva al centro di riabilitazione neuropsichiatrico di Grotta Ferrate, siamo nelle vicinanze di Roma, dove questa mattina i carabinieri hanno eseguito 10 arresti, uno in carcere, 9 ai domiciliari nei confronti di altrettanti dipendenti. Sono tutti accusati di maltrattamento aggravato, uno di loro anche di sequestro di persone, perché 3 pazienti sono stati segregati e chiusi a chiave nelle loro stanze. Il comandante Dario Praturlon, che è il comandante del NAS di Roma, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Le evidenze sono che molti degli operatori che lavoravano all'interno con funzioni sia assistenziali che educative avevano un atteggiamento violento, forte, intimidatorio verso i ragazzi che erano ospitati. Per essere controllati in modo adeguato, in quanto vivaci, sono tutti ragazzi sotto i 20 anni, molti minorenni, venivano colpiti con degli schiaffi, strattonati, in alcuni casi forzatamente tirati per i capelli per farli mangiare più velocemente. Ecco, una situazione quindi di costrizione fisica, ma anche con insulti, anche morale. Le vostre indagini lo hanno documentato, i ragazzi vivevano in un clima di vero e proprio terrore. Sì, perché il frequente e sistematico ricorso ad atti di prevaricazione, si fossero insulti, ma anche spinte, strattonamenti, schiaffi ripetuti, era quasi un sistema di repressivo che cercava di tenere sotto controllo i ragazzi. Siamo alle cronache dall'immigrazione e dalle migrazioni. Le notizie di questa mattina ci raccontano di nuovi naufragi. Almeno 11 persone sono morte all'alba nel naufragio di un barcone di migranti nel Mar Egeo al largo della costa turca di Dikili, nella provincia di Smirne. Questo è quello che riporta l'agenzia di stampa Dogan, secondo cui 3 persone sono state salvate, ma altre fonti, altre informazioni, tra cui l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati, la sua portavoce italiana Carlotta Sami, poco fa su Twitter ha parlato di 33 vittime, tra cui 5 bambini in 2 distinti naufragi. Le operazioni di soccorso in cerca di eventuali dispersi sono in corso, ma oggi è il giorno del vertice tra Merkel ed Erdogan. La cancelliera tedesca Angela Merkel è volata ad Ankara per un incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e con il premier Davutoğlu per cercare di frenare il flusso di profughi che dalla Turchia cercano di entrare in Europa. La Merkel, che ne ha parlato anche ieri sera a cena con il presidente francese François Hollande, vuole convincere il governo di Ankara a controllare sul serio i suoi confini per impedire la fuga via mare verso le isolette greche di migliaia di profughi. Solo a gennaio 70.000 sono riusciti a imbarcarsi dalle sponde turche per poi raggiungere i paesi del nord Europa, primo fra tutti la Germania. In vista del vertice UE del 18 e 19 febbraio, la Merkel ha bisogno di incassare un successo per giustificare la sua politica di accoglienza, che la vede sempre più isolata in Europa, e rassicurare i suoi elettori sul fatto che gli arrivi dei profughi cominceranno a diminuire. La UE ha già promesso alla Turchia 3 miliardi di euro per convincerla a tenere i profughi sul suo territorio, ma Ankara è sempre più in difficoltà. Una partita molto complessa, dove nemmeno la Turchia sembra più in grado di saper fronteggiare la crisi. Vittorio D'Arolda, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al calcio, c'è sicuramente da parlare della giornata di campionato di ieri, ma forse, Carlo Genta, più della prossima settimana. Il che fa lo stesso, Simone, sì. Perché abbiamo cominciato ieri con le partite della domenica, la volata verso il 13, la sera di sabato, quando Juventus e Napoli si guarderanno negli occhi con distacchi invariati. Ieri sono state due partite molto difficili per entrambe, tese, sbloccate solo dopo una settantina di minuti. Però la Juventus ha vinto a Frosinone, il Napoli ha vinto in casa con il Carpi, e dunque rimangono questi due punti di vantaggio che il Napoli si porta a Torino. Questo vuol dire che due risultati su tre vanno bene al Napoli, un pareggio che manterrebbe la situazione invariata, e è chiaro che una vittoria del Napoli a Torino darebbe più 5 ai napoletani, e quindi comincerebbe ad essere un distacco importante. Ovviamente avremo una settimana per parlare di tutto questo. Sugli altri fronti, Maluccio, le milanesi, Roma che torna in zona Champions, più o meno. Roma la terza vittoria consecutiva, un campionato di strisce. Tra l'altro Napoli ieri ottava vittoria consecutiva ed è record per il club. Record superato dalla Juventus, 14 vittorie consecutive, e sono numeri che fanno paura. La Roma è soltanto tra virgolette la terza, ha battuto 2-1 la Sampdoria con brivido finale per una traversa colpita dai blu cerchiati, però è una Roma che cresce, e vista così la situazione con l'Inter, che ha giocato una partita molto strana a Verona incassando 3 gol piuttosto bizzarri, segnandone pure 3, un risultato che non serve moltissimo ai nerazzurri, pareggio anche per il Milan, questa volta un po' involuto in casa contro l'Udinese, aveva pareggiato anche la Fiorentina, e dunque la Roma comincia ad avvicinarsi alla zona Champions, anzi è ad un solo punto dall'Inter e a 2 della Fiorentina, quindi tutto da giocare. Allora, grazie a Carlo Genta, che ritroviamo dopo le 14, ovviamente con tutti i convocati. Adesso noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Ci ritroviamo subito dopo, torneremo a parlare di unioni civili, ne parleremo con una deputata del Movimento 5 Stelle, parleremo della vicenda di Brindisi e poi sentiremo il diario da Sanremo di Ruggeri. A tra poco. Effetto giorno. Peggiorano ulteriormente le borse, meno 2,12% per il FTSE MIB, meno 2,25% per il FTSE OCER, negative anche le altre piazze finanziarie europee, lo spread oltre i 130 punti base. Sulle unioni civili dal PD un no ad Alfano, resta nel DDL l'adozione del figlio del partner. Picchiati, ingozzati di cibo, umiliati e insultati, le violenze in un centro per disabili, alle porte di Roma 10 arresti. E dopo le manette per una tangente sui rifiuti si dimette il sindaco di Brindisi con Sales. La città andrà al voto insieme alle altre. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, questi erano i nostri titoli. Abbiamo raggiunto poco fa sul tema delle unioni civili Silvia Giordano del Movimento 5 Stelle, piuttosto critica, abbiamo letto, almeno avevamo letto sui giornali, sulla decisione appunto arrivata tramite comunicazione sul blog di Grillo. Sentiamo cosa ci ha detto. Senta, lo giudica un tradimento? No, assolutamente no. Io lo considero un errore causato da, ancora non ho capito cosa, probabilmente da una superficialità o da un, sì, forse da una superficialità, ma un errore, è come tale migliorabile. Superficialità, cioè, non tattica politico-elettorale? Ma guardi, onestamente spero di no, perché noi quando siamo entrati in Parlamento nel 2013 abbiamo detto che non volevamo essere politici o strateghi, ma portare la voce in Parlamento dei nostri cittadini. Però mi scusi, la sensazione è forte che si tratti di un atto, Sì, siamo tutti sulle opinioni, su sentito dire, su quello che uno singolarmente pensa. Io capisco chi pensa che sia stato per tattica, io dico, io non ho avuto questa sensazione, non posso dare la certezza di nulla, però io non ho avuto questa sensazione, secondo me l'ho avuta come un voler trattare un tema etico e comunque molto delicato e molto sentito da tutti, sia a favore che contro, ma molto sentito da tutti, in questo modo lasciando la libertà di coscienza, che per me non ha non è il metodo giusto, perché noi in Parlamento non dobbiamo rappresentare, secondo me, la coscienza del singolo parlamentare, ma la coscienza del cittadino, in quanto appunto ci siamo sempre voluti chiamare portavoce e non onorevoli. Tra l'altro lei stessa, leggevo, no, che ha ritweetato questo tweet di Grillo del 2013 nel quale 2012 nel quale Grillo si diceva favorevole alle nozze tra In realtà, volendo un attimo chiarire il tweet, lui lamentava questa mancanza di normativa, sì, riguardo le unioni civili, dando la colpa alla classe dirigente politica allora attuale, quindi il PD e il PDL praticamente, e alla Chiesa, e poi c'era l'hashtag nozze gay. E questa era l'intervista appunto a Silvia Giordano del Movimento 5 Stelle, piuttosto critica, come avete sentito, con questa scelta. Paola Baldassar, l'ex vice sindaco di Brindisi, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno e benvenuta. Allora, ex vice sindaco, perché si dimise in tempi non sospetti, prima che arrivasse, come dire, questa inchiesta per corruzione che ha portato in manette il sindaco Consales. In realtà lei si dimise per contrasti in seguito ad un'altra inchiesta, Baldassarre, no? Sì, l'inchiesta News. Che cos'è? Storia era? Beh, è una storia già triste in sé, perché il sindaco, pur avendo formalmente alienato le quote della società di cui lui era titolare, società di call center e comunicazione, di fatto poi rinnovava alla stessa, con un atto di giunta, il servizio di call center, senza evidenziare il conflitto di interessi che poi è emerso, e comunque immediatamente ho ravvisato la gravità della scelta. Certo, e gliel'ha detto e si è dimessa, guardi, a quel punto. Guardi, io gliel'ho detto, io ho portato avanti sin dal primo momento una battaglia politica aspra, vissuta, come dire, anche nell'isolamento, e l'unico faro in quel momento davvero difficile è arrivato soltanto dalla Digos e dalla Procura, perché poi ho ricevuto anche delle minacce. Io devo ringraziare la Procura di Brindisi, nella persona di Napoli, è stata minacciata. Certo, sono stata anche minacciata. Da chi? Sono stata minacciata e telefonicamente. Il dramma vero, guardi, che la mia attività amministrativa non aveva la possibilità concreta di svolgersi nei tempi che, come dire, la burocrazia, per quanto lenta, chiede. Senta, quindi non mi era possibile operare. Baldassarre, brevemente, perché abbiamo dei tempi un po' stretti, quello che vorrei capire è questo: adesso si apre evidentemente una fase nuova. Consales, il sindaco di Brindisi, adesso, come si diceva, in manette per una vicenda di corruzione, si è dimesso, sono dimessi gli altri consiglieri, la città andrà a votare. Lei si vuole candidare? No, guardi, non è una mia aspirazione. Io voglio contribuire a restituire fiducia a questa città, una città straordinaria che non merita di essere sotto i riflettori per fatti, tristissimi fatti di cronaca. È una città che vanta una straordinaria tradizione culturale, bellezze, concretezza, lavoro, e quindi io mi opererò con lo spirito della cittadinanza attiva perché questi beni possano essere valorizzati, perché guardi, noi siamo in emergenza antropologica, ancora più che lavorativa. Emergenza antropologica. No, dico un'espressione forte e interessante. La ringrazio. Grazie a Paola Baldassarre, ex vice sindaco di Brindisi, lo ricordiamo, forse non l'abbiamo detto prima, con Sales, Partito Democratico, autosospeso quando partì questa prima indagine. Continuiamo a parlare di PD, però per altre cose, per questioni di primarie. Luciano Fasano è professore di scienza politica all'Università Statale di Milano e si occupa dell'Osservatorio Nazionale sulle Primarie, che ha questo nome un po' complesso, è Candidate and Leader Selection. Fasano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, quello che si stanno chiedendo tutti, soprattutto nel quartier generale di Beppe Sala, fresco vincitore delle primarie, è questo. Le persone che hanno votato o che avrebbero votato in caso avessero vinto le primarie, Maiorino e Balzani, andranno a votare me oppure no? Voi su questo ne sapete qualcosa, visto che fate delle rilevazioni abbastanza precise? Sì, questo è un tema classico, che è quello della lealtà dei selettori, cioè i cosiddetti elettori delle primarie. Cioè, se perdendo il proprio candidato preferito le primarie, la persona decide di votare ancora o meno per lo schieramento che ha organizzato le primarie stesse. E nel caso della rilevazione che abbiamo svolto ieri, tra l'altro abbiamo dati ancora più freschi rispetto a quelli su cui si ragionava qualche ora fa, il tema è un po' questo. Gli elettori di Balzani e di Maiorino soltanto per il 60% dicono di essere sicuri di andare a votare per il centro-sinistra qualora il loro candidato prescelto non avesse vinto, e quindi c'è un buon 40% che, come dire, si presenta con le valigie in mano oggi che il vincente delle primarie è Giuseppe Sala. Per quanto riguarda invece gli elettori di Sala, questo dato è più elevato, 72% degli elettori di Sala, forse anche agevolati dal fatto che avevano maggiori aspettative di successo del proprio candidato, sostengono con sicurezza di votare paradossalmente una maggiore fedeltà alla coalizione da parte dei sostenitori di Beppe Sala. Sì, esattamente. È interessante questo punto. Allora, Fasano, io la ringrazio, purtroppo abbiamo veramente poco tempo, però questo è un punto interessante e forse quello che si stanno chiedendo tutti, in particolare gli elettori milanesi. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo, come sempre, per fare un punto sui mercati, oggi particolarmente importante, e poi andremo sulle vicende di Napoli. C'è stata una lunga sequenza di omicidi, il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha detto bisogna mandare l'esercito, rafforzare la presenza dell'esercito. Ne parleremo con un uomo che Napoli l'ha frequentata dal punto di vista giudiziario molto, che è Federico Cafiero De Rao, procuratore adesso di Reggio Calabria, ma per un ventennio circa procuratore aggiunto alla DDA di Napoli. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: al largo della Turchia due nuovi naufragi di migranti, almeno 33 vittime, tra cui 5 bambini. Oggi l'incontro tra Merkel ed Erdogan ad Ankara, proprio su questi temi. Ancora una giornata pesante per i mercati, giù tutte le borse europee, affonda quella di Atene, ne parliamo tra un attimo. Sulle unioni civili dal PD un no ad Alfano, resta nel DDL l'adozione del figlio del partner. Picchiati, ingozzati di cibo e umiliati. Le violenze in un centro per disabili alle porte di Roma, 10 arresti. Domani inizia il Festival di Sanremo, inizia oggi il nostro racconto, il diario della manifestazione del nostro Enrico Ruggeri. Lo sentiremo tra poco. Intanto la borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Allora ci rimane veramente poco tempo, non riusciamo ad approfondire le vicende di Napoli in questo momento, ci occupiamo di due altre questioni. La prima è la vicenda dello chef francese che si è tolto la vita nei giorni scorsi, la ricorderete. Dalle indagini emergono problemi finanziari per una truffa a base di vino. Sarebbe una truffa milionaria e non lo stress o il timore di perdere una stella Michelin la vera causa del suicidio di Benoît Violier, chef numero uno al mondo per la List, la classifica francese dei 1000 ristoranti migliori del pianeta. Il grande cuoco, che aveva 44 anni, è stato trovato morto il 31 gennaio scorso dopo essersi sparato nella sua casa di Cristiene, pressi di Losanna, poco distante dal suo locale pluristellato, l'Hôtel de Ville. Secondo la rivista economica elvetica Bilan, Violier si trovava in gravi difficoltà finanziarie, si parla di perdite intorno ad 1 milione di euro, per colpa di due truffatori, due commercianti vallesi, che gli avrebbero fatto pagare casse di bottiglie del vino più costoso al mondo senza mai consegnarglielo. Quando alla fine del novembre scorso il raggiro è stato scoperto, uno dei due truffatori è stato arrestato, ma è uscito dal carcere proprio qualche giorno prima del suicidio di Violier. Una strana coincidenza. Tra l'altro, gli stessi due commercianti vallesi che hanno truffato Violier avrebbero truffato anche due suoi predecessori nella gestione dell'Hotel de Ville, ma sia dall'avvocato del truffatore che da quello dei ricorrenti arriva una smentita categorica alle dichiarazioni della rivista Bilan e il mistero si infittisce. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al Festival di Sanremo col diario quotidiano del nostro Enrico Ruggeri. Il Sanremo di Ruggeri. Sanremo si apre all'Hotel Londra con un gran galà, con tutti i grandi attori della musica, arrivano i cantanti, arriva la torta, arriva Conti, strappato credo a un'altra cena perché ha fatto una touch and go, è arrivato, ha fatto gli auguri a tutti, foto di rito, quindi come sempre, insomma, Sanremo apre i battenti con la sua parte mondana. Il primo approccio è sempre quello, quindi baci, abbracci, giornalisti che spesso ti fanno i complimenti sul pezzo e tu li guardi e li segui per capire se i complimenti li faranno anche al cantante che incontreranno immediatamente dopo di te. Comunque Sanremo è anche questo e parte esattamente alla Sanremo, un grande affettuoso carrozzone nel quale le persone più disparate si rivedono magari una volta all'anno. Si comincia a fare sul serio con la prova generale e io vi terrò aggiornati in merito. Da Sanremo per ora è tutto, ciao da Enrico Ruggeri. Il momento di Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.